e la farina disponete la fontana, aggiungeteci le uova e una scorza di limone, frite il burro a mozzette ed un pizzico di sale, poi lo zucchero e mi raccomando di passare a mano. Fatto ciò lavate ed asciugate l'uva su tanine e mettetela con la ricotta dentro una terrina, mescolatele avvalendovi dell'utile di un cucchiaio, meglio sai di un materiale che non soffre l'acciaio. Armatevi di un mattarello, con di quelle spianerete una sfoglia delicata che verrà quindi deposita in un'apposita tortiera per